l'amor che la radio si può ascoltare, sia al ristorante, al caffè che al bar, quando non c'è un'orchestrina, tu puoi lo stesso danzare. Ma se la radio dirà attenzione, canta Raimonda la sua canzone, col batticuore signori e signore l'ascoltano pien d'emozione. Piano piano, senza pausa, senza far confusione. Quando canta la radio Raimonda, non spostar la lunghezza dell'onda, altrimenti un disturbo ti fa cri cri cri cra, cri cri cri cra. Nel sentir le sue note canore, tutti in coro rispondono olè, pure i gatti nel fare l'amore, perfin le galline nel far coccodè. Quando canta la radio Raimonda, mentre pensi se bruna o se bionda, se i suoi occhi son neri o son blu, l'uccellino fa ciu ciu ciu ciu. Alla stazione della radio un dì io mi recai per vedere così la deliziosa Raimonda, tutta una folla era lì. Era iniziata la trasmissione e il portinaio là sul portone col suo apparecchio e con tanto di orecchio pregava di fare attenzione. Zitti zitti, piano piano, senza far confusione. Quando canta la radio Raimonda, non spostar la lunghezza dell'onda, se l'ascolti il tuo cuore farà cri cri cri cra, cri cri cri. E tutti quanti sospirano in coro, avrà forse un nasino così, quella bocca del lungo lavoro val più d'un tesoro se dice di sì. Quando canta la radio Raimonda, sogna allora che la vita è gioconda, che perfin l'uccellino laggiù per amore fa ciu ciu ciu ciu. Finalmente la vidi apparir, m'intesi allor quasi svenir, per cappello portava un imbuto, aveva un occhio di vetro marron, la parrucca ed il mento barbuto, lei fece un acuto, sembrava un trombone. Quando canta la radio Raimonda, con la voce il microfono sfonda, e perfin l'uccellino laggiù scappa e strilla ciu ciu ciu